Cantieri di Carità e Giustizia. Prosegue il percorso dei Cantieri di Carità e Giustizia, siamo alla seconda tappa, il quaderno numero 2 è stato distribuito in occasione della Via Crucis cittadina prima di Pasqua, un secondo documento che presenta letteralmente l'articolata mappa delle realtà che a Padova si prendono cura di coloro che si trovano in situazione di povertà. Un mosaico, così lo definisce il Vescovo Claudio nell'introduzione al testo, un mosaico pieno di colori diversi che messi insieme sembrano proprio comporre ancora una volta l'immagine del buon samaritano e dell'albergatore che si prendono cura del malcapitato. Il vescovo vuole ancora una volta mettere in rilievo un semplicissimo particolare del racconto evangelico: il fatto che il samaritano non vuole fare da solo, ma coinvolge un altro nella sua opera di cura e assistenza. E così risulta che quell'opera di carità e giustizia è fatta insieme, pur in modalità diverse, con tempi diversi, con specificità e vocazione diversa. Il primo coinvolge il secondo, ma poi il secondo sostiene il primo in un circolo virtuoso di carità. E allora la mappa variegata che viene presentata in questo quaderno, grazie alla disponibilità di oltre 70 realtà operanti in città e grazie al lavoro della Fondazione Zancan, questa mappa ci rimanda proprio all'insieme, contemporaneamente alla diversità delle opere e delle ispirazioni, considerando le già presenti e le nuove possibili relazioni tra operatori di carità e giustizia. È un quadro ricco che dice la natura solidale della città di Padova. I numeri che emergono sono veramente significativi anche in termini economici. È vera ricchezza che andrebbe forse maggiormente considerata. Il progetto dei cantieri, lo ricorda il Vescovo Claudio, è nato perché nei mesi scorsi la vita di Padova è stata caratterizzata da molte voci urlate riguardo ad alcuni temi e queste urla hanno rischiato più volte di oscurare i sussurri di chi viveva e vive in una situazione di povertà e debolezza. Mi è sembrato importante, scrive ancora il Vescovo, in quel momento stimolare un percorso di ascolto e riflessione che portasse a dare ancora più attenzione ai sussurri di coloro che si trovano in situazione di povertà o che lentamente ci stanno scivolando dentro. Il progetto dei cantieri nasce per questo, cercare di fare di più e meglio con le nostre variegate competenze per i poveri, per cercare strade e trasformare i nostri servizi affinché siano adeguati alle attuali circostanze. E posso riconoscere, dice il Vescovo, che tantissime realtà hanno desiderato collaborare al progetto, compresa l'amministrazione comunale, che in questi mesi è stata guidata da persone diverse, come sapete, da due commissari in attesa tra pochi giorni delle elezioni del sindaco. Vorrei anche sottolineare, aggiunge ancora il Vescovo, che quello che emerge è un quadro che non può non avere un forte impatto politico e che anzi dovrebbe proprio trasformarsi in un richiamo alla città affinché con consapevolezza nel suo insieme sappia farsi carico di chi è più fragile, offrendo opportunità e occasioni di riscatto. Penso che ogni nostro gesto di carità debba essere un appello a tutta la società, chiamata a formulare nel suo insieme risposte per chi è in difficoltà e in ultima analisi anche alle istituzioni pubbliche, perché svolgano sempre meglio il proprio ruolo architettonico di promozione e valorizzazione delle forze che operano con i poveri. Dobbiamo ricordare che l'attenzione ai poveri non è un discorso di settore, ma dovrebbe essere una modalità privilegiata per pensare il tutto della città. Un'attenzione politica a tutto tondo che dovrebbe toccare tutti gli ambiti: l'urbanistica, la cultura e l'educazione, l'allocazione delle risorse finanziarie, eccetera. Vogliamo una città più attenta ai poveri, dice il Vescovo, vorremmo che nascesse una proposta alta, nuova, di attenzione ai bisognosi che coinvolga tutta la città. L'attenzione ai poveri deve crescere fino alla realizzazione piena della dignità dei poveri, perché essi possano essere pienamente cittadini con diritti e doveri, capaci a loro volta di dare il loro contributo alla costruzione della città. La memoria di Monsignor Giovanni Nervo e Monsignor Giuseppe Pasini sono stati ricordati proprio qualche settimana fa dalla diocesi di Padova. Questa memoria sia fonte di ispirazione in questa opera, in questa ricerca per fare meglio di più e di più per i fratelli più deboli, perché sedendoci a mensa con loro essi possano rialzarsi e a loro volta essere servitori del bene comune e della giustizia. Questo è il Vescovo Claudio con le sue parole di introduzione al quaderno numero 2 del progetto Cantieri di Carità e Giustizia, un quaderno che approfondiremo nelle prossime settimane, intitolato Capacità e Talenti a Servizio della Povertà. Cantieri di Carità e Giustizia.